spiegava la storia dei poeti e sorrideva ed era triste se parlava della guerra. Quando il professore ci raccontava terminasse la lezione. Quando a far l'amore non era più il professore, mi parlava solamente di stelle e cercava le parole più belle. La liberazione, la schiavitù, pero me...